cartella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma vengo anch'io. No, tu no. Perché? Perché no. Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, no, vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no. Allora eccoci qui, inizia l'assemblea domenicale di Venga Anch'io. La prima cosa di stare attenti ai compagni qua, rispondete al telefono per favore. E la prima cosa, vorrei dare subito i numeri di sottoscrizione, i numeri che servono per sopravvivere questa radio, che è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56, 00185 Roma, oppure potete sottoscrivere in maniera elettronica, informatica, attraverso il sito www.ondarossa.info e trovare la voce sostiene, lì ci sono le modalità per sottoscrivere in questo modo. Noi l'altro giorno alla festa della radio, il 24, abbiamo anche inaugurato il nuovo, diciamo, trasmettitore. Perciò invitiamo gli ascoltatori magari a segnalarci alla posta della radio, Onda Rossa, @ondarossa.info, come... Hanno appena telefonato da Garbatella, dice che si sente come una spada. Ecco. Perciò di posti, se si è allargato il giro, se si sente dove prima non si sentiva. Insomma, dateci una mano anche per monitorare l'ascolto della radio. Anche questo è un modo di militanza, di dare senso alla cosa. Perciò noi, dopo fatto questa operazione, che non è un'operazione tanto di routine, che in tutte le iniziative, tra le trasmissioni, noi le ripetiamo, lo ripetiamo perché la radio necessita sempre di un finanziamento nel momento in cui non c'è finanzia nessuno, ma se non chi ci ascolta e chi la fa. Oggi vorremmo fare un ragionamento. Intanto, per cominciare, la parte centrale sarà la questione del Giro d'Italia. Questa mattina si sta preparando, oggi ci sarà la conclusione del Giro d'Italia qui a Roma. Questo Giro d'Italia macchiato di sangue, perché il giorno della sua partenza, che sono andati a partire in Medio Oriente, no? In Israele, no? In Israele, diciamo, sono andati da quelle parti, da Gerusalemme, in contemporanea Israele massacrava il popolo palestinese che manifestava per il diritto al ritorno, ha fatto delle stragi, perché oltre 60 morti e centinaia di feriti in un luogo in cui già per curarsi una malattia normale è difficile, penso un po' curarsi dalle ferite, dalle fratture e dall'avvelenamento di gas. Insomma, ha utilizzato ogni forma. L'altro giorno hanno espropriato e demolito una scuola costruita con i fondi di sottoscrizione da italiani. Nessuno ha detto niente. Una scuola, perché lì ci deve passare il muro, una scuola che era in uso dei palestinesi. No, una scuola particolare, perché era costruita con i copertoni usati. Voi capisce bene che volontà ci hanno avuto anche quella popolazione berbera in quel caso di avere comunque sia un momento di tregua, no? Che garantisce la scolarizzazione infantile, perché si trattava delle prime classi elementari, quindi costruita in deserto con i copertoni, poi ovviamente ci hanno messo altre cose, insomma, l'hanno coinventata in qualche misura. Pure quello sono arrivati a fare. Fanno di tutto, tanto è vero, l'ultima notizia, questa mattina leggevo un flash, bombardamento israeliano sulla striscia di Gaza, due palestinesi morti. Cioè, questo continua, davanti a tutto questo c'è questa festa del Giro d'Italia che vogliono dedicare, no, con l'unificazione, Israele, l'Italia, come se fosse un qualcosa. Hanno utilizzato impropriamente un antifascista come... Gino Bartali, no? Un militante antifascista che avrebbe fatto quelle cose per i partigiani, era una staffetta partigiana, cattolico, molto devoto, nel senso che davanti a questo aiutato hanno strumentalizzato il fatto di Gino Strada per Gino, poi veramente Gino Bartali proprio. Io penso che se ci sarebbe, se sarebbe incazzato, sono sicuro con quel carattere. Gino Bartali avrebbe detto: li è tutto sbagliato, li è tutto da rifare. Ecco. Allora, poi questo percorso in giro per l'Italia, noi lo diciamo perché sicuramente chi ci ascolta manco lo sa, o a meno che non l'ha sentito da questi microfoni della radio, non c'è stata una tappa dove il giro alla partenza o all'arrivo è stato contestato. Ma hanno avuto una capacità di nascondere le immagini e cose che non, senza mai precedenti. Io dico, ma se guardano allo specchio pure quei giornalisti che fanno al seguito di questa cosa, di questa corsa, che è una corsa popolare, molto sentita dalla cosa, beh, in ogni tappa c'è stato, in alcuni ci sono stati pure dei battibecchi, dei scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che non facevano altro, senza disturbare nessuno, sventolare vessilli dalla bandiera palestinese oppure una kefia, una cosa del genere. Già solo presentasse al giro con la kefia al collo era una provocazione, che non ti facevano più passare e ti venivano fermati e identificati in più parte. Poi ieri in Val di Susa, nella tappa che arrivava sul Cervino, Cervino, una forte contestazione, perché c'è stato anche un corteo molto vistoso, rumoroso, insomma, eppure sono riuscito a nascondere anche quello. Adesso sentiremo sulla Val Susa Nicoletta, se ci risponde, così ce lo dirà direttamente, ecco. Cose su cioè, abbiamo visto delle cose veramente. Oggi sta qui a Roma, un circuito cittadino, 10 giri. Io penso, è quello che chi sta a abitare intorno a questo circuito, che c'è la possibilità, mettesse una bandiera da palestinese, uno striscione sui barconi, alle finestre, insomma, in modo da non fargli nascondere sta cosa. Ci sarà qualcuno che è solidale con questa situazione? Noi non ce l'abbiamo, noi non ce l'abbiamo con gli ebrei, ma noi ce l'abbiamo con uno stato criminale che è lo stato israeliano, uno stato confessionale in cui non è consentito praticare nessun'altra cosa. Anzi, i palestinesi che già vivono e hanno la cittadinanza israeliana, perché stanno dentro, non hanno gli stessi diritti degli altri ebrei. C'è un apartheid decantato, e poi parlano di democrazia, e l'Occidente va a spulciare se è democratico Maduro, che fa l'elezione, vanno a votare il 63% di persone e dicono ha fatto delle elezioni imbroglio, e vanno a vedere ad Israele in cui te dicono loro chi deve andare a votare, oppure se c'hai diritto o non diritto di partecipare alla vita sociale di quel paese. Perciò noi, quando parliamo di queste cose, sgombro da tutte cose, non abbiamo problemi con la religione. uno fa le, può essere ebreo, uno può essere cattolico, musulmano, non ce ne frega niente. Guardiamo la condizione in cui quello Stato tratta questa situazione. Noi perciò vorremmo, anche col dibattito, con le telefonate, ragionare di queste cose, sollecitando la partecipazione all'iniziativa oggi pomeriggio, in modo che diventa visibile e che finalmente, almeno alla tappa finale, riusciamo in un modo o un altro a bucare questo silenzio che c'è stato per tutto le 20 tappe del giro. Noi il silenzio non lo bucheremo, oggi faremo giornata piena. Noi chiudiamo Venga Anch'io e dopo pomeriggio apriamo nuovamente per raccontare dalla piazza quello che avviene. Pertanto invitiamo tutti quelli che vanno in piazza che ci facessero una telefonata per raccontarci quello che vedono, quello che non vedono, com'è la condizione della piazza. Insomma, ecco, questo noi ragioniamo su questa cosa. È chiaro, vorremmo dire poi due cose su quello che è avvenuto in Venezuela, dato che l'opposizione non gliela fa abbatterlo, ha utilizzato la violenza, ha utilizzato le manifestazioni, sta utilizzando il boicottaggio, perché quello che avviene là, l'inflazione, questa cosa qua avviene perché ci stanno chi ha in mano le redini della merce, della cosa, non la fa arrivare ai mercati, insomma una condizione molto difficile. Non hanno avuto la capacità di presentasse alle elezioni, e adesso ci sono state le elezioni, hanno riconfermato Maduro per la seconda volta, elezioni che chiunque poteva candidarsi, ma hanno rinunciato. E a me non mi sembra, non è che c'è stato vietato la situazione, eppure se c'è una canea anti cosa, è una condizione in cui, a posto di trovare forme di aiutare quel popolo che è affamato veramente, trovare forme di assistenza, di aiuto, di farlo uscire da quella condizione di boicottaggio, invece, cioè, proveremo anche su questo tema di dire qualcosa. E poi, se troveremo la possibilità, parleremo pure giallo-verde, no, del Brasile, di questa pantomima, io non so come definirla. E se non fosse tragica, ci sarebbe da ridere quello che sta avvenendo, però è un fatto serio che si sta facendo, perché c'è una battaglia di egemonia della Lega sui 5 Stelle e della Lega sulle istituzioni, in un modo pure grave e pericoloso, e con arroganza e grezza alla Salvini. Cioè, ormai il fascio leghismo grillino sta prendendo veramente pericolosamente piede, perciò bisogna pure spiegare cosa sta avvenendo e spiegare pure a noi che famo, guardiamo dalla finestra, pure noi ci prendiamo i popcorn. Io penso che dovremmo trovare un altro modo di guardare quello che sta avvenendo, perciò io lascio la parola a voi a proseguire su questi temi e proviamo a sentire Nicoletta. Sì, no, mentre tu provi a sentire Nicoletta, dunque oggi la tappa conclusiva è il 27 di maggio, la 21esima tappa che approda direttamente a Roma. Sapete, dal punto di vista della maglia rosa ce l'ha Fromm, nessuno gliela toglierà, ovviamente ha fatto un'impresa l'altro ieri. Certo. E però ovviamente quello che interessa a noi era dare una significanza a questa conclusione, così come Ettore ha già spiegato, in tante altre parti d'Italia si sono pavesati i vessilli del popolo palestinese, le kefie, l'iniziativa, appunto, come ieri si è svolta in Valsusa. Noi ci aspettiamo dalla cittadinanza romana, dalla migliore parte di questa cittadinanza, di coloro che hanno a cuore la pace, che hanno a cuore i diritti dei popoli, ovviamente, di avere questa disponibilità di andare dove si porta il giro, dove fa il circuito qui a Roma, nel centro storico, brandire una bandiera, una kefia, sventolarla in modo che si possa indicare quello che è stato fino a questo momento oscurato, che c'è anche un significato a favore della Palestina, viste le cose che ci stiamo dicendo ormai da quando è partito il giro il 4 di maggio. Dentro questa storia facciamo appello ai nostri ascoltatori, a coloro i quali, i compagni, amici, eccetera, si porteranno al giro, di telefonare qui a Radio Onda Rossa, così daremo, come dire, in diretta quello che sta avvenendo, sempre da questo punto di vista dell'estrema pacificità delle iniziative che vogliamo mettere in piedi, nonostante che la questura ha brandito un'estesa zona rossa, quindi sì, si sì. È messa Vince, l'hanno chiamata la zona verde questa volta, no? Sì, perché è il verde è più riposante. E parte da Porta Medroni, arriva fino a Piazza del Popolo, sì, da una parte. Dalla parte sinistra è delimitata dal fiume Tevere, esatto. E poi ci sono tutti i cosiddetti palazzi addirittura, pensa, sì, no? I palazzi del potere, che sono tutti presidiati, ovviamente, quindi un'amplissima zona verde dentro la quale teoricamente sarebbe inaccessibile poter manifestare, ma noi, come ripetevano sia Vincenzo che Ettore, dovremmo far di tutto per rendere, diciamo, visiva invece una protesta, perché poi, Vincenzo, il Giro d'Italia non finiva sempre a Milano, notoriamente, qualche volta a Scavallate, è finita a Verona, all'Arena di Verona, ma stavolta anche a Roma, nel lontano, sì, passato. Nel lontano passato, questo sembra proprio un messaggio, no? Una chiamata a decore, come si dice a Roma, tra Gerusalemme e Roma si indica questo messaggio, no? Adesso io qui non ci voglio ricamare troppo sopra, però qui sotto accusa, Vincenzo, ci devono essere pure i mezzi di informazione, pubblici, privati, radiotelevisivi, carta stampata. Io per esempio noto una cosa, adesso sentiremo anche Nicoletta. Io nella tappa di ieri, per esempio, sono state alcune proteste, anche significative. Io ritrovo sullo stesso manifesto, che insomma si titola ancora come quotidiano comunista, c'è una cronachetta della tappa dove si esalta, come ricordavi tu, le gesta di Froome, si fa il paragone con Marx, insomma si esaltano la fatica dei corridori, anche giustamente, ma c'è una righetta dove si dice c'è stata anche una protesta che ha riguardato centinaia di persone, che si è svolta in tal modo, cioè viene proprio eclissato tutto, Vincenzo, viene tutto ignorato. Questo, diciamo, è il livello di informazione in Italia. Poi c'è se meraviglia che stiamo all'ottantesimo posto nel mondiale per quanto riguarda l'informazione che viene, diciamo, che si svolge in questo paese. Insomma, non c'è da meravigliarsi. È un'informazione sostanzialmente di regime, è un'informazione, diciamo, da pennivendoli, stanno al servizio di situazioni che non mettono in luce la realtà. In questo caso si parla del Giro d'Italia, ma potremmo pure parlare di tante altre cose, Vincenzo, che vengono ignorate, vengono oscurate, e questo è il livello di informazione di sto paese. Allora abbiamo in collegamento Nicoletta di Val di Susa, ci racconta un po' come è andata la giornata di ieri. Noi abbiamo saputo che c'è stato poi anche un corteo, insomma la cosa è stata abbastanza movimentata, anche se poi nessuno neanche hanno fatto sparire tutto nei giornali e nelle televisioni. Se tu ci puoi aiutare a raccontare, a diffondere quello che è avvenuto ieri in Val di Susa alla tappa che arrivava su al Cervino, e stamattina noi ci stiamo attrezzando a ripetere quello che possiamo fare qui a Roma. Ci puoi raccontare com'è andata ieri? Certo, in realtà le giornate della presenza del Giro in Valle di Susa sono state due, e cioè è arrivato venerdì ed è ripartito ieri, appunto. E in tutte e due le giornate ci sono state delle manifestazioni. Attraverso queste settimane noi di fatti avevamo preparato una presenza proprio per sottolineare il fatto che questo giro è sporco di sangue, il sangue dei bambini palestinesi, dei bambini di Gaza che vedono negato il diritto a vivere bene nella terra in cui sono nati i loro nonni, i loro genitori, eccetera, eccetera, proprio da questa realtà imperialista sostenuta da tutte le potenze capitalistiche del mondo, a cui chiaramente anche l'Italia si adegua, perché ne fa parte l'Italia, diciamo i governi italiani, perché ne fa parte concretamente. Il rapporto tra la Palestina e la Valle di Susa non è nato ora, sono almeno dagli anni Ottanta noi avevamo accolto i rappresentanti della prima intifada, e cioè questi figli della Palestina che erano cacciati da tante parti del mondo, perché se c'è un popolo che non ha avuto appoggio neanche dai paesi arabi è stato proprio il popolo palestinese, usati e gettati come succede a tutti i poveri rispetto ai ricchi, e ne sappiamo qualcosa rispetto a questo. Allora, noi avevamo già fatto un'assemblea alla credenza di Bussoleno, il movimento Notav ha fatto due incontri, proprio perché anche come movimento Notav la Valle di Susa ha partecipato al no al giro sporco di sangue. Il venerdì abbiamo fatto con una grande bandiera palestinese un momento di presenza proprio sull'attacco della salita che poi sarebbe finito al Colle delle Finestre. Il rapporto tra noi e le cosiddette forze dell'ordine, la Digos, era come sempre a nostro totale sfavore, ne avevamo almeno 5 a testa, però comunque la cosa è stata fatta con le bandiere, con la nostra presenza. La cosa si è ripetuta su ben due punti della Valle di Susa, tra l'altro anche a Venaria il venerdì era stata srotolata una grande bandiera palestinese, addirittura la Reggia, i compagni che l'hanno fatta sono stati identificati, eccetera, eccetera. Ieri due momenti di contestazione alla partenza a Susa con tante bandiere notar, ma con almeno il triplo dei cellulari della polizia che hanno costruito una vera e propria barriera davanti ai manifestanti, erano almeno un centinaio di manifestanti. E poi soprattutto a Bussoleno ci siamo attestati vicino alla stazione, lì siamo stati tutti quanti identificati, hanno anche perquisito le borse e gli effetti personali di chi era lì presente, sono stati strattonati addirittura alcuni che non facevano parte comunque del nostro gruppo, ma chiaramente avevano visto che ci salutavano e erano venuti a parlare con noi. Come sempre il giro è passato in mezzo a slogan e a contestazioni, non siamo riusciti a rallentarlo perché materialmente le forze dell'ordine erano assolutamente, avevamo almeno due file di poliziotti, qualcuno anche in assetto antisommossa che cercava di arginarci. Comunque immediatamente dopo è partita una manifestazione spontanea con lo striscione per le strade di Bussoleno e con gli applausi anche di una parte della popolazione di Bussoleno che si è resa conto del problema. Quindi di questo giro sporco in fondo non solo del sangue dei palestinesi, ma anche dei migranti, perché proprio venerdì a Bardonecchia c'è stato all'arrivo, si vedevano le montagne su cui certamente hanno perso la vita più che i 3 migranti che sono già stati trovati al disgelo, e proprio su quelle pendici noi abbiamo visto che la propaganda faceva vedere questi sciatori, questa fila di sciatori che innalzando dei fumogeni rosa scendevano a dimostrare l'allegria e la partecipazione della valle ad un evento che noi non vogliamo. Quindi la contestazione c'è stata, quelle montagne anche le hanno sporcate di sangue proprio coloro che cercano di fermare i poveri per dare il diritto di passaggio alle merci e ai capitali di questa Europa ormai insostenibile. La Valle di Susa, al di là delle questioni del nuovo governo, rispetto a cui anche chi aveva avuto illusioni comincia però a prendere posizione, perché chi è onesto non può non capire che il voto che qualcuno presentava come voto utile si è rivelato un voto più che mai funesto. La Valle di Susa in piedi c'è con i popoli che resistono, perché è un popolo che resiste. Certo, il voto utile è servito per portare Salvini al ministro degli interni, insomma. Certamente, certo, perché il risultato è questo. Siamo anche in un momento dove qualcuno dice ma almeno è la destabilizzazione del potere precedente. Noi però sappiamo che la destabilizzazione in un momento in cui al popolo degli oppressi è negata ogni possibilità di reazione, abbiamo soltanto un Parlamento in cui tutti stanno dalla stessa parte al di là delle manfrine, un Parlamento rispetto a cui la destabilizzazione vuol dire semplicemente l'avanzata delle destre. Siamo in un momento pericoloso, quindi dare voce alle lotte è essenziale. Bisogna ricostruire questo tessuto di lotte, che non solo, anche di lotte che vincono, perché i tempi sono stretti. Sentiamo che questo clima, che è clima di fascismo ormai più che evidente, che è nato dalle chiare scelte dei governi passati e continua e aumenta col governo che, se sarà costituito, il costituendo governo. Nicoletta, ciao. Vincenzo, ti abbraccio. Grazie. Volevo capire, sì. Mentre manifestavate, mentre avete preparato per tempo queste iniziative contro il giro sporco di sangue, ma la gente lì di Bussoleno, di Susa, che ne pensava? Davamo fastidio noi o davano fastidio l'apparato, come al solito? Mi sembra di sì. Avete avuto modo di interloquire per nulla con quelli che sono gli amatori ciclistici, eccetera? Insomma, l'iniziativa è stata in qualche misura condivisa, oppure si lascia sempre degli strascichi, dice ma lasciateci perdere, vogliamo vedere il giro, eccetera? No, possiamo dire che la gente guardava, e certamente, ecco, il venerdì sera abbiamo anche fatto un momento con il concertino dal balconcino, proprio come contro manifestazione a quella che avveniva a Susa, con dispendio di 32.000 euro da parte dell'amministrazione comunale, che ha vissuto questa cosa come momento di pubblicità per la città. Direi che nessuno si è assolutamente scagliato contro chi manifestava. Io credo che la gente riesca anche a capire più di quanto vorrebbero far credere, più di quanto è la realtà che viene fomentata da una propaganda tutta quanta spalmata sui grandi interessi. Quindi noi non abbiamo avuto contestazioni da parte della popolazione, anzi, come dicevo, addirittura anche dei semplici così spettatori, proprio perché ci salutavano, sono poi stati avvicinati dalla Digos e identificati. Grazie Nicoletta, ci sentiamo. Grazie. Senz'altro, perché ovviamente le cose a cui accennavi precedentemente, la vicenda ovviamente del voto utile in valle, si è dimostrato ovviamente non solo in valle, purtroppo, ma soprattutto in valle, però con questa possibilità, certo, di dire così blocchiamo la TAV, mi sembra una pia illusione. Poi lo vedremo, certo, allo stato dell'arte, quindi sarai nostra interlocutrice costante. Una domanda, tanto per capire: quanti sono i rifugiati trovati col gelo morti? Allora, i rifugiati trovati morti ad oggi nel giro di 2 settimane col disgelo sono già 3. E temiamo che il numero cresca sicuramente, perché quella era una zona impervia e tante volte, tutte le notti, cercavano di passare anche con la neve alta, perché comunque delle persone che provenivano da viaggi di morte, che avevano sfidato i deserti e le detenzioni, che avevano sfidato il mare, e beh, vedere che al di là di quelle montagne, che pure sono pericolose, c'è il miraggio del paese dove avrebbero voluto andare a vivere, e beh, quelle montagne non li fermano. E erano anche, noi abbiamo fatto qui in valle, c'è una grande solidarietà per loro, che li ospitiamo, cerchiamo anche di dare loro una mano. E però è difficile davvero fermarli e dire aspettiamo un giorno, 2 giorni, perché vedono la liberazione vicina, che poi chiaramente è fittizia anche quella, ma chi sfugge dalla fame e dalla guerra, beh, è chiaro, è nella natura cercare di liberarsi e di liberare, per cui queste frontiere sono la cosa davvero peggiore che possa succedere, non solo ad un essere umano. La natura non crea mai frontiere, e l'uomo è il capitale che le crea, e quindi è questa la realtà. Chi cerca di sfuggire alla disperazione, beh, non ha neanche paura della morte. La morte purtroppo viene perché i governi cercano di colpire i più deboli, perché quello che sta succedendo da noi e nei mari dell'Europa è in fondo soltanto una delle tante facce di questo mondo dove dominano le guerre del capitale. Bene, grazie Nicoletta. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Ettore, mi viene in mente una piccola riflessione, così un flash, no Vincenzo? Questi migranti che fuggono, come ricordava Nicoletta, dalla miseria, dall'oppressione, no? Molto spesso, e ne abbiamo purtroppo sovente notizia, muoiono nel deserto. Chi scampa dal deserto finisce per morire molto spesso in mare. Ora stiamo vedendo che si muore anche in montagna. L'ultimo corpo, Ettore, di un giovane africano, è stato ritrovato in un stato di pietosa decomposizione, vestito con una giacchettina leggera. Qui si parlava del freddo, che stava a diversi gradi sotto zero, quelle montagne, con una giacchettina leggera e delle scarpette da tennis. Cioè, questa è la situazione, che qui non è che si fa del pietismo, qui ormai avrebbero detto i nostri padri latini, no usque tandem, fino a quando si può sopportare una situazione di questo tipo? Ecco perché il nostro appello continua a unificare forza, a unificare le lotte. In Francia stanno facendo anche questo, un tentativo di unificare le lotte, perché se deve partire da questa base. E ieri in Francia c'è stata una grandissima manifestazione in varie città, cioè, su se questa deve partire cosa. Da sta base, unificazione delle lotte, ricreare un blocco sociale che non ha più interesse a vivere, diciamo, in questo stato di cose, che non ha interesse, diciamo, a quelli che sono i disegni del grande capitale. E qui ce ne sarebbe tanto, tanto da raccogliere. Noi dobbiamo fare uno sforzo con grande pazienza, però con grande lena, per ricomporre tutta una serie di movimenti, di lotte, al fine di dare pure una soggettività politica, diciamo, a sti processi, che non significa costituire il partito, fare le liste elettorali, fare il partitino di stampo burocratico con i capetti, però significa dare un'idea generale di questa ormai insopportabilità. Veramente, fino a quando dovremmo sopportare una situazione di questo tipo? Scusate. We'll be right back. allora siamo qui e siamo per dirvi ancora una volta l'impegno che c'è ancora oggi, da stamani a stasera, riguardo alla conclusione della tappa del Giro d'Italia. Un impegno civile, un impegno pacifico, un impegno di lotta. E ovviamente sotto questo profilo invece sono intervenuti pesantemente, il più pesante è il Messaggero, ma anche Repubblica, eccetera, sulla preoccupazione che non bastava appunto quello che la Questura ha già deciso una settimana fa di un'estesa zona rossa, Serafino diceva è una zona green come l'hanno chiamata loro, beati loro, voglio dire, a questo livello. Ed è estesissima, appunto, immagina tutti i lungotevere, non si può camminare da San Paolo fino a Piazza del Popolo. Insomma, oggi metteranno in crisi parecchi romani, almeno i romani che abitano nel centro storico. Non vi azzardate arrivare al centro storico con la macchina perché sarete fermati, quindi comincia già da Porta Metroni, appunto, comincia la giornata infernale, voglio dire. Quindi pensate a fare altro, a meno che non vi portate al giro. Allora, se vi portate al giro, staremo insieme. Il Messaggero, ma preso, io non sono andato, non me va manco di guardarlo quel giornalaccio che si chiama Tempo, ovviamente, eccetera, ma rincarerà la dose perché fa solo questo, ovviamente, eccetera. Il Messaggero fa un lungo articolato, lo divide a blocchi e dice poi i pericoli, no? Del Giro d'Italia, i pericoli. L'attenzione delle forze dell'ordine sta, leggo dal Messaggero. L'attenzione delle forze dell'ordine stavolta non è solo per la minaccia terroristica mai sopita. No, immagino che ai varchi ci metteranno a controllare ovviamente quei metal detector, eccetera. Ma anche per possibili azioni da parte del movimento filo-palestinese, che domenica si sono dati appuntamento al Circo Massimo alle 15.55. Pensa un po' che novità, la diamo pubblica questa storia, no? E via di seguito. Quando la carovana rosa partirà dai fori imperiali lungo il percorso di 11,5 km ripetuto per 10 volte. Il centro e in particolare il ghetto saranno sorvegliati speciali e l'attenzione dell'intelligence già da giorni è concentrata su possibili blitz di frange da sinistra antagonista, notab e anarchici. Ma voi capite, sempre la solita storia, la solita fotografia, le solite chiacchiere, ma non c'ha una coscienza sto coglione, voglio dire, del giornalista che scrive queste cose pedissequamente perché copia una velina della Questura da questo punto di vista. Ma noi, ma che ce ne frega, ma te pare siamo impegnati sul ghetto, mo sta a vedere che stiamo a guardare, scusa, siamo impegnati sul giro, sta a vedere che stiamo a guardare il ghetto, a parte che il ghetto so fratelli a noi da questo punto di vista. E quindi è proprio per incarcare, no? Sì, certo. La misura repressiva decisa da loro fino in fondo, quando pacificamente si vuole mostrare ovviamente gli stendardi, l'immagine della Palestina che è stata vituperata a partire dalla partenza a Gerusalemme e oscurata durante tutto il giro, solamente perché avete sentito da Nicoletta, insomma, che hanno predisposto l'altro ieri a Venaria un grande bandierone palestinese, dove l'hanno riproposto? Sulla la cima del Colle delle Ginestre. Capirai che hanno fatto, oh, ma dico, ancora c'è il diritto di manifestare, almeno si sembra, poi nei nostri confronti è difficile, la Costituzione lo prevede che possiamo esternare il nostro libero pensiero, eccetera. Poi l'hanno ripetuto ovviamente a Susa, a Bussoleno, ma avete sentito in quale misura di repressione, 3-1. Ma non si può andare avanti così, insomma, no? E quindi presumo che anche oggi a Roma ci sarà questa paranza, però una paranza che non può impedire a coloro i quali si portano al giro di mostrare un vessillo palestinese, gridare viva Palestina, free Palestine, ai girini che fanno il giro ovviamente 10 volte, eccetera. Perché sarebbe, voglio dire, fuori dalla Costituzione, sarebbe fuori anche dalle stesse misure dell'ordine, non c'è nessuna possibilità di incutere nei confronti del cittadino che voglia per questo, cioè, se lo fanno sono arbitrarie, cose autoritarie ovviamente, eccetera. Ma se sarebbe voluto danneggiare più duramente il giro, ma che ci sarebbe voluto bloccarlo direttamente? Coi chiodi, con l'olio, con tanti sistemi, dato che camminano per strade che non sono tutte quante controllate, no? Si avrebbero voluto danneggiare. E invece si voleva solo comunicare che c'è un popolo oppresso che questo giro è partito da quella nazione che opprime questo popolo, e volevamo dire che un giro in questo modo si è reso complice dei massacri, del sangue che stanno versando il popolo palestinese. Allora, Vincenzo, perché questo pericolo e questo allarme? Il messaggero conclude sotto questo capitolo, dentro l'articolo sui pericoli, gli atleti arriveranno nella tarda mattinata di domenica in Viale delle Terme di Caracalla, dove lì c'è l'attendamento ovviamente del giro, eccetera. Poi in passeggiata raggiungeranno la partenza, che è in via dei Fori Imperiali. Resta l'incognita su possibili azioni dei movimenti filo-palestinesi, che anche ieri a Torino hanno manifestato contro il giro partito da Israele. Il tantam sui social network degli attivisti prosegue seminando hashtag shame on giro. Capirei, no? Le stanno mettendo pure un po' d'inglese così rincarano la dose. La comunità ebraica è in costante contatto con le forze dell'ordine e ha rafforzato ancora di più il proprio sistema di sicurezza. Capite? Velina su velina, non c'è un briciolo di autenticità dentro questa storia, che appunto è normale, è semplice da questo punto di vista. Una parte dei cittadini romani vorranno portarsi nelle vicinanze del percorso del giro perché vogliono dimostrare la propria solidarietà al popolo palestinese. Punto. Qual è il delitto? Anzi, e dovrebbe essere un dovere dello Stato italiano di aver fatto questo, ma ha fatto l'esatto contrario, facendo partire il giro da Gerusalemme. No, Vince, questo allarme del ghetto, no, che ogni volta si tira fuori, io non ricordo mai interventi all'interno del ghetto per aggressioni o situazioni. E io attraverso il ghetto, come un quartiere di Roma, tranquillo, non mi sento un qualcosa diverso. Cioè loro cercano di separarlo, di mantenere sto ghetto, e allora ogni cosa che succede, uno sceglie un ponte per esporre una bandiera, per dare simbolicità, l'aggressione e l'offesa alla Shoah. Cioè questo ponte poteva essere quello, poteva essere un altro, quello era più pratico per chi l'ha organizzato in quel territorio, perché stavamo parlando della Garbatella, no? Non è che stavamo parlando di quelle. Allora si andavano al ponte vicino a sinagoga, che succedeva? Che cosa sarebbe successo se uno lì avrebbe messo la bandiera palestinese? Un'aggressione allo Stato israeliano? Ci facevano la guerra? Io non riesco a capire ancora questa cosa che un giorno io sono ottimista, perché un popolo che lotta così duramente da anni un giorno vincerà, e sentirai questi qua che cambieranno registro. Da parte dello Stato israeliano, dell'esercito, dell'ideologia sionista, si cerca di passare sempre da vittime, no? Con questo contesto delle vittime dovuto all'olocausto autentico ovviamente, eccetera, che quanti fratelli ebrei insieme a noi hanno fatto battaglia in questo senso, e qui a Roma nei confronti dei fascisti di vario ordine e grado. Ma questa è una storia anacronistica, insomma, no? Non c'è stato mai un briciolo di umanità da parte dei dirigenti del popolo israeliano, come è avvenuto ovviamente nell'apartheid sudafricana, che a un certo punto, per la lungimiranza e la generosità di Nelson Mandela, dopo tutti quegli anni di galera che si era fatto, di aver istruito un percorso di pacificazione. Chi ha dato, chi ha avuto, però lo facciamo pubblico, in modo che non sia niente di nascosto, ovviamente, eccetera. E lì, per fortuna, c'è stato il corrispettivo bianco, ovviamente, il de Klerk della situazione, che ha corrisposto a tutto questo. Ma da parte israeliana non c'è nessuna corrispondenza, c'è solo l'annessione. Le cose che dicevi tu all'inizio, ovviamente, c'era, di eliminare questa scuoletta, chiamiamola così, fatta dei copertoni, perché lì ci deve passare il muro, quindi significa nuova annessione. I 2500 insediamenti che stanno ripreparando ovviamente intorno a Gerusalemme testimoniano che per loro il problema palestinese è chiuso. Gli spariamo addosso, l'ammazziamo tutti e finisce così. No, infatti su questo tu l'altro giorno dicevi che hanno persino rifatto la planimetria della città di Gerusalemme, abolendo, eliminando la moschea di Al-Aqsa, cioè proprio l'hanno eliminato, lì ci faranno altre cose, no? hanno questo pensiero. Il discorso è che questi palestinesi, perché io sono no per due popoli, due stati, io sono di uno stato laico, indipendente, democratico, in cui tutti hanno gli stessi diritti, compresi i palestinesi che ci vivono, non ci vivono, ci sono stati, cioè perché mentre gli israeliani, molti sono, diciamo, da diaspora loro, che sono rientrati oppure sono migrati lì, i palestinesi là ci sono da sempre, ci sono sempre stati. E allora io sono per questa soluzione, ma questa soluzione sicuramente non si trova con la creazione dello Stato confessionale, come si sta predisponendo a lanciare il Parlamento israeliano. Allora, sotto legge del governo di ultradestra, ovviamente di Netanyahu, che continua a sparare nei confronti dei palestinesi, perché venerdì, mentre noi stavamo qui a indicare che era la nona, il nono venerdì della marcia per il ritorno, ancora venerdì, a fine della giornata, si contavano 25 palestinesi feriti gravi, ovviamente c'era, per fortuna non c'è scappato il morto. L'hanno fatto stamattina con un bombardamento. L'hai sentito tu, appunto, e c'era, ricordo a tutti quanti che sono sotto preghiera i musulmani, perché sono Ramadan, è cominciato il 12 maggio, eccetera, e che quindi tutto quello che avviene è un surplus ancora aggiuntivo. Volevo leggerti proprio velocemente, che ho ricavato da Nenea News, che è una delle agenzie ovviamente che si interessa della Palestina, un titolo che mi ha fatto subito rimbalzare agli occhi, perché tra l'altro non lo fa direttamente i palestinesi, ma lo scrive appropriandosene la giornalista israeliana Mira Haas, sul giornale di centro-sinistra Haaretz, che è più o meno simile all'Unità nostra, qui, quando c'era l'Unità, quando era buona l'Unità, è vero. Il titolo è: noi moriamo comunque, che sia dunque davanti alle telecamere. Capite? A me mi ha messo un'angoscia, sì, ma è agghiacciante, no? E ho detto: ma caspitina, che cos'è? E lei dice, sempre tra virgolette: i miei amici di Gaza, i suoi amici israeliani, sono indignati dall'accusa di Israele che sia Hamas a guidare tutto, capito? Sempre il passaggio delle vittime, no? Non so i palestinesi, Hamas, no? Eccetera. Il vostro popolo, ancora tra virgolette, ci ha sempre guardati dall'alto in basso, perciò è difficile che voi, per voi capire che nessuno manifesta nel nome di qualcun altro. Quindi questo gli risponde invece i palestinesi intervistati. E ancora dice: la capacità di noi palestinesi di essere uccisi è più grande della capacità di voi israeliani di uccidere. Capite quanto è ancora ulteriormente agghiacciante quest'altra testimonianza? Mi ha detto un abitante del campo dei profughi di Daesh, che è vicino Betlemme, ottimista da sempre, intendeva dire che a causa di questa differenza alla fine le due parti raggiungeranno un giusto accordo. È un filantropo questo palestinese, ovviamente, rispetto alle cose che stanno avvenendo. Martedì di questa settimana, lungo la barriera del confine di fronte a Beit Hanun, nella striscia di Gaza, è diventato nuovamente evidente, appunto, i feriti, i morti, eccetera. C'è un limite alla capacità dei palestinesi di essere uccisi, capite? Ancora ulteriori, sempre sullo stesso andante da questo punto di vista. E infine, riprendendo il titolo, dice: se muori, che sia di fronte alle telecamere, facendo rumore. Ecco, se no, almeno la nostra vita è stata in qualche misura ben spesa, no? L'abbianto è una vita infame quella che stiamo svolgendo qui davanti, e almeno lasci qualcosa di fronte a questa disumanità dilagante, insomma. Ha voluto anche specificare, ovviamente: sono andato al campo della marcia per il ritorno due o tre volte, non mi è piaciuto, dice qualcuno di questi, troppa confusione. Se Hamas avesse avuto il controllo dell'intera iniziativa non ci sarebbe stato questo caos. Capite il paradosso, no? Uno dice: c'è troppa confusione perché si portano tutti lì, ognuno fa quello che gli pare, ma questo è il popolo, ovviamente, che protesta e via di seguito. Quindi rigetta all'indietro l'accusa che invece sono quelli di Hamas, e poi ne dà pure i numeri. I morti sono tanti e non sono solo quelli da Hamas. Ho controllato Le cifre ufficiali in possesso di Hamas sono che dall'inizio della marcia del ritorno del 30 marzo c'erano 42 persone legate ad Hamas tra le 120 uccise. Voi capite il paragone? Certo, è un buon numero a questo livello, e come qui noi siamo dei militanti, no? E poi c'è il popolo. Quando li contiamo, ovviamente, perché noi in qualche misura abbiamo fatto da agitprop dentro questa storia. E per finire, sempre parlando delle cose che ho tirato fuori dalle agenzie palestinesi o chi si interessa della Palestina, ovviamente, eccetera, c'è questa notizia ormai drammatica, ovviamente, della crisi umanitaria a Gaza. La cosa più importante è che manca l'acqua potabile, non esiste proprio, insomma, ne hanno una quantità talmente bassa tutti i giorni da far paura, insomma, quindi siamo al disastro, come dire, ecologico umanitario da questo punto di vista. E c'è stata una ulteriore novità. L'altro ieri parlavo dell'artista brasiliano che si è rifiutato ha rifiutato un grande compenso per andare a fare un concerto a Tel Aviv, e oggi invece c'è un rapper olandese che ha fatto il verso alla canzone vincitrice del festival europeo, che l'ha vinta una israeliana, e si è incazzata ovviamente il governo israeliano, non poteva essere altrimenti. È una canzone al rap che le prime battute fa: guarda che bello, lancio bombe, Israele vince ancora, la festa va avanti per 70 anni e giù di lì. La parodia della canzone Toy, di quella che ha vinto Netta Barzilai, la vincitrice israeliana dell'Eurovision, fatta da un umorista olandese, ha scatenato l'ira di Israele, che denuncia cliché antisemiti. Eccolo qui il discorso, sempre ci hanno questo vizio della persecuzione che Israele, no? Se gli ebrei sono stati perseguitati solamente nel nord Europa, perché l'altra parte, Spagna, non hanno avuto mai persecuzioni. Beh, nello stesso territorio, diciamo, semita, in Palestina, cosa, e vivevano insieme, non è che c'erano discriminanti. La discriminante è avvenuta in Europa, Polonia, Germania, Ungheria, queste zone. Ed è proseguita però in Palestina, perché con la mentalità inglese, con l'imperialismo inglese che ha dominato tutto l'Ottocento e gran parte del Novecento, ovviamente, eccetera, il dividi d'impera è stata fatta da Picot, con cui hanno deciso ovviamente di dare la terra ai israeliani e di negarla ai palestinesi. Erano loro che avevano il mandato, ovviamente, in Palestina, se ne sono belli candati nel 48, hanno fatto capri e cavoli, al di là della, come dire, epopea israeliana, che invece la racconta in tutt'altro modo, no? La nave che arriva lì, lo sbarco, certo, via di seguito, eccetera, eccetera. Per finire, leggo proprio due righe che sono simpatiche, insomma, no? Come dove sta qui? In una lettera inviata, no, quello al ministro, che ce ne poteva fregare di meno, dice: nelle immagini di sfondo di questo rapper che ne parla e gli fa il verso sopra, che scorrono su uno schermo dietro l'umorista olandese, vestita con abito che ricorda Netta Barzillai, scene di palestinesi che protestano contro il trasferimento dell'ambasciata a Gerusalemme, con i morti, con i feriti, eccetera, eccetera. E qui arriva la reprimenda del Ministero degli Affari Israeliani, che parla di un testo, a suo dire, con allusioni antisemite, come prendere in giro il cibo hacker, eccetera. Mostrare video tristi e deprimenti come sfondo, cioè l'uccisione dei palestinesi e il ferimento dei palestinesi, è un video triste e deprimente per il ministro degli esteri israeliano. Bene, questo giusto per finire. Gli eventi della scorsa settimana sono affrontati con satira, gli risponde ovviamente il canale dove andate in onda, e quindi per farvi capire che continua, come dire, questa sagra, tutto danno solamente esclusivo. No, Ettore, voglio dire una cosa, per essere precisi, se no poi qualcuno ci telefona e ci dice che non siamo stati del tutto precisi. Che le persecuzioni contro gli ebrei siano avvenute in tutta Europa, a partire dal 400, se pensa alle persecuzioni dell'Inquisizione spagnola, se pensa all'Inquisizione italiana, Torquemada, tutta una serie di persecuzioni che sono avvenute in Spagna, in Italia, in Francia, e poi, come dicevi tu, nel nord Europa. Il nazismo poi, diciamo, da questo punto di vista ha superato ogni limite. Questo è vero, e noi ci inchiniamo di fronte a questo sacrificio, a queste persecuzioni, lo ribadiamo costantemente, però questo non giustifica il fatto che poi, lasciatemela dire così, anche un po' brutalmente, da perseguitati si diventa persecutori. Cioè spesso la storia, e questo non riguarda solo gli ebrei, noi potremmo parlare, perché poi durante l'olocausto degli ebrei c'è stato pure l'olocausto degli zingari, l'olocausto degli omosessuali, degli armeni, poi se pensiamo pure alle liberal democrazie che si sono palleggiate tra Spagna, Inghilterra e Francia lo schiavismo, loro si vantavano già di avere i parlamenti democratici, ma erano coloro che poi manovravano il traffico di schiavi nel 700, agli albori dell'800, nel 600. Quindi qui tutti hanno, diciamo, qualcosa da far ripulire la coscienza. Però il punto diventa questo, che molto spesso la storia si insegna che con l'acquisto dei poteri, con l'acquisto di appoggi dei potenti, da perseguitati si diventa persecutori. Lo Stato di Israele è diventato uno Stato persecutore, e ci aveva ragione qualche tempo fa un nostro ascoltatore, che quando spesso si parla di antisemitismo, gli ebrei, gli israeliani esercitano molto spesso una forma di antisemitismo, perché se noi stiamo ai canoni classici delle etnie, loro si scagliano contro i palestinesi, gli arabi, che sono popoli semiti, d'origine semita. Quindi non è che possono fare, diciamo, Vincenzo, le bucce agli altri, possono fare, come posso dire, contrastare gli altri su sto terreno. Qui va fatto il popolo israeliano, ma ci sono magnifici personaggi nel popolo israeliano che, come ricordava Vincenzo, sono nostri fratelli e perseguono la causa, una causa di libertà, di liberazione dei palestinesi stessi anche all'interno di Israele. Però devono fare l'esame pure con la propria coscienza. Cioè qui tutta l'Europa c'ha da fare esame con la propria coscienza per quello che è avvenuto. Però a questo punto anche il popolo israeliano, Israele, deve fare un esame a fondo su queste questioni. Bene, allora ve lo ricordiamo, siamo anche qui non solamente ovviamente per parlare di Palestina, del Giro d'Italia eccetera, ma oggi domenica 27 il Giro finisce qua, viene fatta la premiazione a Madonna di Loreto. È una premiazione in cui si porterà la sindaca Raggi, non so qui quale rappresentante del governo ci sarà, ovviamente c'era, visto le note storie di cui parlavamo prima. Ci sarà il governo passato, quello carino. Altrettanto filo israeliano, non tanto gli manca niente. Oppure ci fanno una scappata a Mattarella, vede un po'. No, ma quello è difficile, lo sai, è troppo impegnato da questo punto di vista. E quindi ve la diamo come appuntamento, un appuntamento generico, perché il nostro appuntamento è durante tutto il percorso del giro, l'appuntamento dei nostri ascoltatori lo diamo dunque tutto il percorso del giro, che lo trovate appunto sul Messaggero e sul Messaggero online, ovviamente come...